Radio 24 Reportage. Ho guardato la finestra, ho visto che pioveva in modo strano, mia moglie mi ha fatto venire l'ansia di spostare la macchina, siamo riusciti a scendere, portare l'autovettura in Corso Montegrappa, quando siamo ridiscesi a Corso Montegrappa siamo arrivati insieme all'acqua, poi ci siamo rintanati in casa e dal primo piano abbiamo visto crescere l'acqua costantemente fino a arrivare ai 2,20 m che è arrivata, più niente di recuperabile. Niente, praticamente sì, io tutta l'attività, tutti i 18 anni di sacrifici che abbiamo messo, non solo io, mia moglie, i dipendenti e quant'altro, tutto ammucchiato là in fondo, è perso. Siamo arrivati a 2,50 m, 2,50 m di acqua violenta, di acqua cattiva. Questa volta ha distrutto tutto, tutto ciò che poteva essere distrutto è stato distrutto. E questa è stata dopo il 70 quella peggiore, perché comunque l'acqua, noi siamo rialzati di quasi 2 metri rispetto al livello del bisogno e l'acqua è rientrata anche qua sopra a distanza di 40 anni dall'ultima volta. Magazzini 2,30 m d'acqua, tutto completamente rovinato. 3 mesi sono passati, in questo soffio di tempo le voci sbobinano la paura e l'emozione di una pagina di cronaca che è un altro capitolo della stessa storia. 9 ottobre 2014, Genova di nuovo sott'acqua. Sarà solo l'inizio di un autunno che trasformerà la città e la provincia in una trincea barbicata sotto un cielo gravido di bombe d'acqua. Nei quartieri cittadini che il bisogno inondò come uno tsunami esploso tra il cemento, il viaggio segue un percorso sulle orme dei fatti e dei sentimenti, coniugato tra la paura, la realtà e la speranza, passato, presente, futuro. Commercianti, artigiani, imprenditori si rialzano, provano, azzardano, qualcuno rinuncia a tutti, quando tornerà la stagione delle piogge, appenderanno lo sguardo al colore delle nuvole, perché nel frattempo nulla sarà stato ancora fatto per rendere meno vulnerabile questo fronte sospeso tra il cielo e la terra. Aiuti, promesse, sostegni, dubbi, rabbia, mille storie aggrovigliate nella stessa, come quella di Alessandro Cotella, il fornaio di Borgo Incrociati, uno che ha perso tutto, 330.000 euro di danni, uno che ha deciso che vale la pena riprovarci e ce lo racconta nel negozio che adesso è un cantiere con le martellate degli operai che scandiscono il ritmo della scommessa. Parecchi lavori di ristrutturazione, speriamo di riaprire, io dico in primavera perché una data certa ancora oggi non riesco a darla, quindi all'inizio non tanto, poi dopo il sostegno e la solidarietà che abbiamo avuto da enti privati e quant'altro ci crediamo un po' di più, abbiamo visto che comunque sia tanta gente ci ha chiesto di non andare via, di rimetterci di nuovo qui in questo luogo e ci hanno aiutati a farci prendere questa decisione di rimanere sul posto. Alessandro tornerà a suonare la focaccia nel segno e nel nome di una solidarietà spontanea che ha acceso la luce tra il fango. Ho avuto aiuti da clienti, un ragazzo che si è venduto delle magliette dalla Sampdoria diciamo a un'asta dentro una discoteca, l'Associazione Nazionale Alpini, la Caritas, non vorrei dimenticarne qualcuno perché così su due piedi non ho la lista completa ma la farò. Poco distante c'è l'antica osteria Pacetti, è lì dal 1885, nel tempo è stata crocevia di principi, attori, politici, sportivi, stoccafisso e pasta al pesto, pure lì si lavora e a breve si riaprirà. Il titolare è Stefano Di Berte, un giuliano folgorato da Genova. Stiamo lavorando per tornare come prima, meglio di prima se possiamo, con delle difficoltà importanti e oggettive, perché comunque le spese sono tante. L'umore del borgo è pesante, la speranza è tanta, la voglia di riprendere è tanta, ci facciamo coraggio vicendevolmente e speriamo di essere almeno per una volta uniti e che la città risponda in maniera concreta. Anche Alberto Matarese, dal banco del negozio di famiglia specializzato in articoli per l'infanzia, ha subito deciso di non mollare. Abbiamo riaperto dopo una settimana, anche perché comunque siamo molto radicati in questa zona e ora, essendo comunque molto più dura sia di 40 anni fa, che così mi hanno detto, che anche solo di 3 anni fa, stiamo provando a ripartire. Comunque è molto lenta e ora vediamo un po' come di far andare avanti le cose. Un po' di orgoglio, bisogna tirarlo fuori. I dati snocciolati dal comune e dalle associazioni a metà gennaio riassumono il senso e l'incertezza di una strada accidentata. L'alluvione del 9 ottobre e quella del 15 novembre hanno mandato sott'acqua 429 attività, interrompendole. Di queste, 141 hanno già riaperto, 2 hanno chiuso per sempre, le altre 286 hanno tempo un anno per riaprire prima che scada la licenza. Insomma, solo un'impresa su 4 è ripartita. Don Mario Leonardi è il parroco della chiesa di 10.000 crocifissi, polmone di una solidarietà che si è scaldata subito, approdo sicuro per aiuti e sfoghi. Alcuni hanno deciso di smettere proprio perché hanno avuto due alluvioni, una di seguito all'altra, e alcuni non si sono rialzati già dalla prima alluvione del 2011, quindi questa è stata quella devastante che gli ha creato proprio una difficoltà enorme. Altri hanno, stiamo provvedendo anche con la Caritas, dei debiti verso lo Stato per poterli ripianare con la Caritas in modo che possano partire da zero. Nei giorni dell'emergenza, con la città invasa da ragazze e ragazzi armati di pale e sorrisi, Don Mario non esitò ad affiggere un cartello sulla porta della chiesa. Bagni gratis, aveva scritto, perché era la voce che circolava insistente. Qualche esercente non aveva esitato a sfruttare il business e anche agli angeli chiedeva la consumazione obbligatoria. Per me è stata come parroco un momento difficile perché poi parecchi hanno voluto fare concerti, dimostrare la loro vicinanza, la loro, ecco, bontà, carità. Ma quello che mi ha colpito è che dietro queste vetrine, dietro questi negozi, in ciascuno c'è una storia. E a volte ci sono delle sofferenze, ci sono delle malattie, delle storie a casa molto complicate e molto difficili. E questo a volte uno si fa abbagliare dal scintillare delle vetrine, però dietro ci sono delle persone con le loro storie che devono riemergere e soprattutto bisogna dare sempre questa dignità al lavoro. Ecco perché l'uomo, ecco, ha una dignità quando ha un lavoro, quando ha un'occupazione. Solidarietà, collette, raccolte, iniziative, concerti nelle chiese, per strada, nelle scuole. La buona volontà e un po' di cuore hanno palpitato sin dall'inizio. Poi sono cominciati ad arrivare anche i quattrini circuitati dalla regione. Rispetto al passato, almeno in parte, la burocrazia non si è subito impantanata nella palude dei codici, delle carte, delle virgole. Dall'11 dicembre al 27 gennaio la regione ha erogato i primi 10 milioni di euro. Paolo Odone è il presidente della Camera di Commercio. Noi in 28 giorni lavorativi abbiamo distribuito decisamente, mandandolo sul loro conto corrente, 1.000 degli alluvionati. Diciamo che è una cosa totalmente nuova, nel senso che intanto Bruxelles, che non, la comunità europea non permetteva l'aiuto diretto alle imprese. È stata fatta una delibera che dice quando ci sono fenomeni alluvionali drammatici o altri fenomeni fisici che vanno a colpire un'intera comunità, c'è una deroga, si possono dare soldi direttamente alle imprese. La regione è quella che ha erogato questi soldi con una certa velocità, soprattutto entro la fine del 2014 per quelli che avevano avuto danni sotto i 40.000, che Quanti sono erano? 1.720 quelli che hanno presentato la domanda. E a questo punto ha attribuito alla Camera di Commercio, e siamo onorati di aver avuto questo compito, il compito di esaminare le pratiche. L'abbiamo fatto insieme agli ordini professionali che hanno messo gratuitamente a disposizione i loro tecnici per le perizie gratuite, e si è sveltito un meccanismo che per l'alluvione precedente era gestito da altri, e c'è la gente che da 3 anni deve prendere ancora i soldi. Ma ci sono poi poco meno di 300 aziende che hanno subito danni sopra i 40.000 euro. Si arriva addirittura a un'azienda di esami medici che aveva apparecchiature nuove, sofisticatissime, pare abbia raggiunto addirittura i 4 milioni di euro di danni. Considerate però che la regione che aveva finito i fondi ha stanziato già una prima tranche di 5 milioni recentemente e si ripromette nella prossima giunta di stanziarne altri in modo tale che siano sufficienti, ma il massimo rimborsabile per questa tranche di danneggiamento super, diciamo, poverini loro, è al massimo di 150.000 euro. Tra chi ha ricevuto i primi aiuti c'è uno dei tanti antiquari di Borgo Incrociati, il titolare del negozio Bric-a-Brac. 3 anni fa era stato promesso, ma non avevano dato nulla. Questa volta devo dire che invece sì, il contributo è arrivato e meno male. Anche perché senza quel contributo molto probabilmente sarebbe stato difficile. È difficile comunque, perché poi alla fine i danni sono sempre molto superiori a quello che si recupera, perché i danni anche strutturali sono stati notevoli, poi anche proprio psicologicamente, perché dopo 3 anni ancora non eravamo proprio ripresi completamente, ma diciamo che va bene. C'è chi si è rivolto anche alla procura. Sono già 400 le persone, commercianti, artigiani, abitanti dei quartieri alluvionati, che hanno già chiesto di costituirsi parte civile nell'ambito dell'inchiesta aperta per omicidio colposo e disastro colposo. La notizia arriva da Palazzo di Giustizia, dove è in corso il processo per l'alluvione di 3 anni fa. Sul banco degli imputati siede anche il sindaco di allora, Marta Vincenzi. Orgoglio e buona volontà, insomma, hanno soffocato la tentazione di arrendersi, ma nulla possono di fronte ad un pericolo che resta incombente. I lavori sulla copertura del Bisagno sono stati sbloccati, altre opere idrauliche sono attese, ma ci vorrà ancora tempo, troppo tempo, prima di potersi sentire un po' più sicuri di fronte al Bisagno, che quando non piove sembra una pietraia secca e innocua. L'autunno arriverà presto e la paura agiterà le notti e i giorni lungo la valle cementificata in ogni spazio, dove, quando le perturbazioni attaccano e scaricano, l'acqua scivola e gonfia il suo torrente. Agostino Gianelli è il presidente del municipio Media Val Bisagno. È la preoccupazione costante, è la necessità di pensare di arrivare a una soluzione definitiva. Abbiamo la necessità di non parlare più delle cose da fare, abbiamo bisogno di fare le cose, e per fare le cose abbiamo bisogno di dare gambe a quelle che sono state le proposte che in questi anni sono andate avanti. Lo scolmatore del Bisagno non possiamo più parlarne se è di 50, 40, 9 metri o quant'altro. Abbiamo bisogno di vedere avviati i lavori, abbiamo bisogno delle messe in sicurezza dei rivi, abbiamo bisogno che le somme urgenze che sono state investite vengano spese immediatamente per far fronte a quelle che sono le domande della gente. La gente da noi non ha bisogno di parole, ha bisogno di fatti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.